Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. L'Italia è un paese bellissimo, è proprio il paese bello, come si dice nella letteratura anche italiana. Mi sembra un paese molto molto ricco dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico, però anche molto ricco dal punto di vista dell'industria, anche se adesso oggi non è il miglior momento, con un potenziale grandissimo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. La voce di Pedro apre la puntata odierna ricordandoci che il nostro futuro passa dall'attrazione dei talenti stranieri, talenti che vedono nella penisola, Pedro ce l'ha detto chiaramente, un grande potenziale, ma ora occorre tradurre questo potenziale in realtà. Vi ricordo che il contributo è stato raccolto da Claudia Vanni nel corso del meeting di oltre 400 studenti ed ex studenti di 21 tra le più importanti scuole internazionali. Oggi spostiamo il nostro baricentro nel sud-est asiatico più remoto, in paesi che anche per la nostra trasmissione rappresentano una novità assoluta. Vi ricordo che prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, tra poco tutte le istruzioni per partecipare e partire per Strasburgo. La frase della settimana è copyright del professor Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica. Sono finiti gli anni dell'Università di Massa, che garantiva in modo diffuso la promozione sociale dei laureati. Gli studenti italiani cercano sempre più formazione ad alto livello all'estero, col risultato che il nostro paese subisce una vera e propria depredazione dei giovani talenti. Così Anelli, as simple as that. Siamo un popolo che invecchia, non dimentichiamolo. Il 1 gennaio 2015 l'età media della popolazione italiana ha raggiunto i 44,4 anni. Prosegue sia il processo di crescita della popolazione anziana sia quello di decrescita di ragazzi e adulti. 154 anziani ogni 100 giovani, lo afferma l'Istat. Questo invecchiamento si riflette anche nel lavoro. L'età media dei dipendenti pubblici continua a salire, sfiorando ormai i 50 anni. I giovani appaiono sempre più mosche bianche. Gli under 30 sono solo il 3,3% del totale. Un paese vecchio con forze giovani che se ne vanno, e se ne vanno là dove si aprono nuove frontiere, un po' come facevano tanti decenni fa gli esploratori dell'epoca. Il primo consiglio che farei è comunque lasciare casa, i ragazzi soprattutto della mia età, anche più giovani, imparare una lingua e soprattutto uscire dalle proprie zone di comfort. Mario Berta, 30 anni, è un regional managing director per un fondo di venture capital nelle Filippine. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziari. Oggi notiziario monotematico sugli ultimi dati dell'anagrafe italiani residenti estero che vi abbiamo anticipato a fine marzo, dati che mostravano il superamento di quota 100.000 da parte dei nostri emigrati nel 2014, almeno a livello ufficiale. Approfondiamo anche quest'anno e nel dettaglio i dati con Desideria Toscano, dirigente dell'area anagrafe italiani all'estero al Ministero dell'Interno. Gli italiani iscritti all'area quest'anno sono stati poco più di 4.636.000. Rispetto all'anno scorso c'è un incremento del 3,3%, circa la metà di quei 4.636.000 risultano espatriati. Però nel 2014 abbiamo superato quota 100.000 e ciò non avveniva da praticamente un decennio. Sì, 100.000, c'è un incremento rispetto all'anno precedente del 7%. Le regioni di provenienza sono interessanti perché è sempre il nord a farla da padrone ormai. Abbiamo la Lombardia con circa 18.500 espatriati, seguita dalla Sicilia e dal Veneto, che hanno registrato più o meno lo stesso numero di espatriati, ci aggiriamo intorno agli 8.700. I paesi di approdo sono praticamente sempre gli stessi, sì. C'è un'alternanza ormai tra Germania e Gran Bretagna, ma sono quelli. Sì. E la Germania l'anno scorso, nel 2014, è stata la meta preferita. Nell'arco del 2014 sì, la meta preferita è stata la Germania con poco più di 14.000 espatriati, seguita dal Regno Unito e dalla Svizzera, mentre nell'anno precedente era il Regno Unito al primo posto con un notevole incremento. La percentuale di espatriati di sesso maschile è solitamente di poco superiore alla percentuale di donne che espatria. Fatto eccezione per i paesi asiatici, le mete preferite sono gli Emirati Arabi e la Repubblica Popolare Cinese, lì registriamo un tasso percentuale di emigrazione maschile lievemente superiore. C'era un dato significativo che non abbiamo mai citato, che è quello dell'Australia. Praticamente sia sul piano generale che dal punto di vista dei giovani vediamo che c'è un discreto incremento di espatriati verso l'Australia, c'è un incremento del 13% rispetto al 2013. Guardando la fascia 20-40 anni, i giovani sono quasi uno su due rispetto al totale degli espatriati. Sì, e anche... un 47% del totale degli espatriati è diciamo una classe di età tra i 20 e i 40 anni, ma non si registrano grosse distinzioni. No, infatti, però i giovani preferiscono, continuano a preferire la Gran Bretagna come meta di espatrio. Sì, infatti diciamo che la meta per i giovani è alternata praticamente, il paese preferito rispetto invece al flusso generale degli espatriati è l'Inghilterra e non la Germania. E noi vi ricordiamo come Garanzia Giovani abbia nel frattempo superato il 500.000 di iscritti, circa 70.000 quelli che hanno ricevuto nella pratica un'offerta concreta di studio o lavoro. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci apre nuove frontiere. Ci spostiamo nel sud-est asiatico, in un paese ancora poco battuto dalla nostra emigrazione, ma è qui, come ci spiegherà tra poco il protagonista della nostra puntata, che stanno prendendo corpo nuove opportunità per chi le vuole cogliere. Lontano dalla Cina o da Singapore, senza scendere fino nel sud dell'Australia, ci spostiamo nelle Filippine. Nome: Mario. Cognome: Berta. Età: 30. Città di origine: Torino. Studi: economia Torino e master a Madrid. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2008. Per andare dove? A Madrid. Perché? Per studiare una business school madrilegna. Qual è il lavoro svolgi attualmente? Sono director for growth per un venture capital asiatico. Dove? Tra Manila, Hong Kong e Singapore. Tornerai? Non al momento, ma se tornassi in Europa probabilmente non in Italia. Love, gonna get this love. It ain't that big a task you'll see, so I'm gonna take the first advance on a high, when I put the motor on dance. I go slow, I go slow, Joy Salinas, forse la cantante filippina più nota in Italia, ci introduce con la sua Rocky Romance alla storia di Mario Berta. Voglio lanciare un messaggio ai giovani italiani dai 20 anni in su: lasciate l'Italia per andare in posti dove ci sono maggiori opportunità. Questi posti, a meno che non lavoriate in finanza, moda o real estate, non sono né Londra, né New York, né Sydney. Il vero spirito imprenditoriale lo potete tranquillamente sfoggiare in paesi dove ci sono meno competitors e più opportunità. Mario, il tuo messaggio è interamente rivolto al futuro, a frontiere inesplorate. Dobbiamo dunque cominciare a ripensare e ridisegnare la nostra mappa dell'emigrazione? Sì, assolutamente. L'immigrazione italiana oggi ha dei canali ben definiti, un po' come l'immigrazione degli anni 30, dove andavano in specifici posti come Argentina o Stati Uniti. Ad esempio in Asia, nella regione dove io risiedo, sono pochissima la presenza italiana. La tua storia ora, Mario, che premetto sarà molto diversa da quelle che raccontiamo solitamente in onda, tutto comincia con una normale, diciamo così, laurea triennale in economia a Torino. Perché questa facoltà? È una facoltà molto generale che comunque dà delle fondamentali per poi poter attraversare qualunque percorso di carriera. E poi non ero così sveglio abbastanza per entrare in medicina o ingegneria. Interrompi per un anno gli studi, ti trasferisci in Olanda per una internship e dopodiché rientrato in Italia decidi che per completare la tua formazione devi nuovamente andare all'estero, questa volta in Spagna. Perché? Innanzitutto la Spagna ha due business school a livello mondiale, non come l'Italia, nel senso la Bocconi è molto conosciuta a livello italiano, ma all'estero ha una fama molto più limitata. La lista delle business school è molto facile da trovare, The Economist fa una lista ogni anno e quindi ho scelto una di quelle che apparivano nelle prime 10. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. A Madrid frequenti la IE Business School, a cui tu lanci un altro consiglio ai tuoi coetanei: se volete andare a fare un master all'estero dovete entrare nelle prime 15 scuole al mondo. Perché, ti chiedo, ma soprattutto, le nostre università sono secondo te competitive nel contesto internazionale della formazione dei talenti? Secondo me no, ma non lo dico io, lo dice il mercato, nel senso le aziende internazionali, grandi brand che vanno dalle grandi banche o le grandi consumo, si sentono molto più a suo agio a reclutare dalle top 10, top business school. A Madrid, subito dopo la laurea, prodi in un'azienda di comunicazione specializzata nella vendita di servizi ai paesi emergenti. Come viene assunto? Hai fatto una selezione? Sì, è una selezione un po' particolare. Letteralmente ci mettono in una stanza, selezionano innanzitutto attraverso il curriculum, poi ci mettono in una meeting room per 5 giorni, dove passiamo differenti processi selettivi, da questioni di scrittura a livello inglese o di una seconda o terza lingua, fino a processi di vendita, ai cosiddetti roleplay, dove ti stressano, ipotizzando un meeting in reale con l'ambiente, sono un processo per 5 giorni di fila dove o tutti vengono presi, selezione, viene preso. Selezione allo stato puro, potremmo dire. Corretto, è un po' come il Prentice, però a livello reale. A quell'azienda devi molto in termini di cosa sei diventato dopo, infatti è proprio coloro che inizi a girare il mondo, prima in Africa, poi in Asia. Allora, quali prospettive ti si sono aperte all'improvviso? L'azienda mi spostava in ogni paese, in un paese differente ogni 4-6 mesi, ma passando da un paese all'altro, nel senso dalla Malesia alla Papua Nuova Guinea, a Macao, all'Angola, alla Nigeria. Quindi le prospettive erano molto, molto ampie, perché si imparava molto in paesi molto differenti. La prima cosa che si impara non è che fare business in questi paesi è meglio o peggio, è semplicemente differenti. Ad esempio nei paesi asiatici la vita privata, la vita lavorativa si mischiano molto, al contrario del livello occidentale, dove noi tendiamo a tenere la vita personale e la vita business molto separate. Beh, nel sud Europa temo la cosa ormai stia evolvendo anche in questo senso. In Asia metti i piedi per la prima volta in Malesia, siamo nel 2010, quando in Europa sta per cominciare a infuriare la crisi finanziaria. Da quel momento capii che il mondo stava entrando nel cosiddetto secolo asiatico. Rifletti, cosa te lo fece pensare? Mi ricordo vedere le Petronas per la prima volta, vedere tutte le costruzioni intorno, la grandezza delle opere, eccetera. In Asia è un paese dove anche la gente è molto, molto spinta al business, perché sta succedendo tutta una, anche la popolazione è molto più giovane rispetto all'Europa, quindi è un intero ecosistema di fattori che spingono la gente a guardare molto più al futuro. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Mario Berta, 30 anni, Regional Managing Director per un fondo di Venture Capital nelle Filippine. Mario studia economia in Italia, poi si trasferisce in Spagna per completare la formazione. Da lì prende il volo la sua carriera, prima con un impiego per una multinazionale che lo porta a diretto contatto con l'Asia, poi con un trasferimento vero e proprio nel continente asiatico, dove inizia a lavorare nel mondo delle startup e del Venture Capital, sviluppando iniziative imprenditoriali ed esplorando il grande potenziale di crescita della regione. Con Mario apriamo una finestra sul futuro. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. E nel giro di pochi anni inizia per te una girandola di lavori, avventure professionali, a cominciare dall'esperienza presso una multinazionale americana, poi il tuo esordio nel ramo tecnologico come amministratore delegato di Easy Taxi. Allora, in due parole, cos'è Easy Taxi? Ma soprattutto, è normale da ventenne assurgere a posizioni di grande responsabilità in Asia? Sì, è un'applicazione, l'applicazione taxi più grande del mondo. Per farvi capire, opera in 34 paesi. Per intenderci, un po' la competitor di Uber, la differenza è che usano taxi con la licenza regolare. Innanzitutto poi ero più verso sui miei 30, che i miei sono comunque in tecnologia è normale avere persone di alto cargo sotto i 30. Che ecosistema c'è in Asia per quanto riguarda il mondo startup? È molto giovane, lo vedo un po' come l'Europa 10 anni fa, ci sono poche startup, ancora meno imprenditori, finanziamenti più o meno limitati che le aziende sono disposte a investire all'interno di innovazione e tecnologia. Una cosa molto importante è vedere che le aziende che hanno successo in questa parte del mondo sono aziende che risolvono problemi reali. Ci sono startup che letteralmente risolvono problemi legati all'Asia, al trasporto, al fatto che non ci sono carte di credito, che la gente non ha conti correnti, eccetera eccetera. E l'ultima tappa, almeno per ora, è rappresentata dal tuo ruolo come direttore per lo sviluppo in un altro fondo di investimenti, spostamento che ha coinciso col tuo trasferimento nelle Filippine. Allora, possiamo considerare questo paese dove ti trovi come una nuova frontiera? Quali opportunità concrete vi hai trovato? Innanzitutto io considero le Filippine e il sud-est asiatico un blocco unico, anche se molte differenze all'interno. Molta gente vuole vivere a Hong Kong e Singapore, però come dicevo anche nella mia introduzione, le vere opportunità sono in paesi più sottosviluppati, perché è letteralmente tutto da costruire. Tu sei molto critico sulla capacità delle aziende italiane di penetrare questi mercati a causa anche della loro scarsa presenza. C'è poca lungimiranza e pianificazione strategica da parte delle nostre imprese, ti chiedo. Sì, assolutamente, io penso che sia un po' una mentalità pantoflaia, passatemi il termine, della cultura italiana. Le piccole e medie imprese italiane hanno 70-80% del loro export, forse in Europa, però la maggior parte del mercato è in Italia, mentre se facciamo una comparazione con le piccole e medie imprese tedesche, hanno un forte, forte footprint asiatico, soprattutto perché vendono molto automazione, fashion, eccetera. E se non cambiamo, ci estinguiamo, questo è il rischio. Quanti italiani ai vertici hai incontrato nel tuo viaggio lavorativo intorno al mondo? Quanta Italia di talento occupa posizioni primissimo piano? E aggiungo un'altra domanda: se riuscissimo un giorno a riconnetterci con questa Italia diffusa, finalmente riusciremo anche a sprovincializzarci e modernizzarci? Gli italiani all'estero, diciamo che siamo pochi sì, ma buoni, buonissimi, anzi, ad esempio il CFO, il direttore finanze di Apple è un italiano, il CEO di Vodafone Group è un italiano. In tecnologia ce ne sono vari, ma vedo anche tanti imprenditori, soprattutto nel food and beverage in Asia, che magari sono approdati per milioni di ragioni in Asia 10-15 anni fa e oggi hanno posizioni dominanti nel settore food and beverage. È un discorso molto complesso, la modernizzazione e la provincializzazione. È un insieme di fattori, non è che possiamo cambiare un criterio di colpo siamo meno provinciali, è una serie di cose, un ecosistema che deve essere ricreato. Ci raggiunge ora in linea Marco Bicocchi Picchi, delegato all'internazionalizzazione di Italia Startup. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, ti chiederei subito, Marco, un rapido commento alla storia di Mario Berta prima di approcciare il focus principale del tuo intervento, quello dell'ecosistema startup. Tutto quanto ha fatto Mario in Italia sarebbe stato possibile? La mia esperienza mi dice che tutto è possibile, solo che in qualche posto è più difficile che in altri. Quindi direi di sì, anche diciamo esperienze fatte nel passato, però arrivare molto giovani e avere delle responsabilità succede più spesso in mercati più dinamici. Qui ci abbiamo qualche zavorra in più. Sì, assolutamente. E ci spieghi in breve cos'è Italia Startup? Italia Startup è un'associazione che è nata nel 2012 su stimolo della loro ministro Passera per rappresentare l'ecosistema nascente dell'innovazione delle startup in Italia. In Italia l'ecosistema delle startup, per quanto giovane, si sta rapidamente affermando, dico anche per fortuna, con numeri che sono raddoppiati lo scorso anno, passando a quasi 3.000 imprese innovative. Quello che ti chiedo è: il nostro tessuto imprenditoriale si sta dunque lentamente trasformando anche qualitativamente, considerato l'elevato profilo di istruzione di questi imprenditori innovativi? Direi di sì, è una rigenerazione di quello che era, diciamo, gli anni 60 aggiornati al 2.0 dell'attuale, quindi con maggior tasso di cultura. Ci è voluto un po' di tempo però, eh? Ci è voluto la crisi. La crisi fa pulizia. C'è però un problema relativo ai finanziamenti. Solo 118 i milioni di euro investiti nel 2014 nelle startup italiane, in crescita sul 2012 ma in calo sul 2013. Quindi siamo un po' ancora troppo conservatori come economia, un'economia che fatica a investire i propri capitali in imprese di rischio, un'economia che ha perso la voglia di rischiare, o siamo semplicemente in una fase di transizione? Siamo un paese di anziani che detengono la maggior parte delle risorse finanziarie del paese, che spiega il conservatorismo, e non siamo abbastanza attraenti per diversi motivi sui investimenti esteri, che mobilizzano anche un mercato come la Germania, che è anch'esso un mercato di demografica anziana. Mario, hai una domanda per Marco Bicocchi Picchi? A livello tecnologico, quali sono le aziende che più hanno prospettiva in Italia? Io vedo nei paesi colpiti dalla crisi che aiuta le persone, comunque gli individui, i consumatori, a monetizzare meglio i loro asset. Ma io credo che in Italia le aziende che hanno più prospettiva sono quelle che hanno più proiezione internazionale. E un'ultima domanda per Marco Bicocchi Picchi: e voi sarete presto in trasferta a Singapore, allora quello che ti chiedo è: anche il nostro sistema startup sta guardando all'Asia? E se sì, quali prospettive di sviluppo intravedete? Italia Startup, organizzando questa missione a Singapore come prima a Londra a novembre, ha proprio l'obiettivo di stimolare e di portare le startup e il sistema italiano al centro di un sistema da più di 1,5 miliardi di utenti internet, da paragonare ai 35 milioni del mercato domestico italiano. Grazie a Marco Bicocchi Picchi, in bocca al lupo per la vostra trasferta asiatica. Domanda di rito per Mario Berta: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Che uscire dall'Italia deve essere una spinta dalla curiosità e non dalla disperazione, prima cosa, e seconda cosa è avere chiari gli obiettivi. Prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 16 maggio, 10 settimane. Quest'anno raddoppiamo le opportunità, che riguarderanno un totale di 8 ascoltatori tra i 18 e i 40 anni. Per partecipare è necessario inviare da adesso fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. E ascoltate ora il tema della settimana. Indicateci una proposta in 140 caratteri per aumentare il più possibile le opportunità di studio all'estero per teenager e studenti universitari. universitari al di là di Erasmus, quindi studio all'estero. Inviateci le vostre proposte in 140 caratteri con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, inviate le vostre proposte solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave Europa 99, ripeto, Europa 99. I primi quattro classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo, classificati dal quinto all'ottavo posto, quattro biglietti d'ingresso al padiglione europeo di Expo 2015 a Milano. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su radio24.it. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi torniamo a parlare di libri che raccontano l'espatrio. Alcuni non dispensano dati, ma si concentrano su consigli pratici. Uno di questi è Vivere all'estero, guida per una relocation di successo di Francesca Pranstrala. Ne abbiamo parlato con l'autrice. L'idea è venuta naturalmente da una serie di circostanze. La prima è che anch'io sono stata una persona che ha vissuto all'estero in passato. Il secondo motivo è perché il numero di italiani che oggi si muovono verso l'estero è in forte crescita e quindi probabilmente c'è anche più richiesta e bisogno di qualche manuale. Lei nel libro descrive alcune fasi di questo adattamento, le può riassumere? Normalmente si passa attraverso una fase iniziale nella quale si è abbastanza euforici perché sembra tutto nuovo, tutto interessante, tutto da scoprire, quindi una fase di entusiasmo che dura abbastanza poco, però qualche settimana, per poi lasciare il posto invece alla consapevolezza che si è lì per restare, quindi non si è affatto in vacanza, ma bisogna affrontare appunto i momenti di difficoltà, il fatto di essere stranieri in terra straniera e quindi di dover capire come funziona il mondo lì e come riallacciare le relazioni sociali che ci aiutano nella vita quotidiana, nel nostro benessere. Di solito si tocca un punto abbastanza basso in termini sia di umore che di sentimenti negativi verso il paese ospite per poi risalire invece e riuscire attraverso nuove amicizie, nuove routine, i successi e le sperimentazioni che si fanno e lo sviluppo di nuove strategie per vivere nel nuovo paese, si riesce a ritrovare invece una serie di significati, di ragioni positive per vivere nel nuovo luogo, poi si raggiunge una fase di integrazione. Per maggiori informazioni, Vivere all'estero, guida per una relocation di successo di Francesca Pranstraller, edizioni Egea. Un motivo per restare o tornare. Sono 1500 le startup italiane che nei 6 mesi di Expo potranno muoversi all'interno di Padiglione Italia, e quanto confermato da Vivaio Italia, programma dedicato alle imprese giovani e innovative. Vivaio Imprese prevede che a rotazione di 30 alla settimana le giovani startup potranno presentarsi al mondo. Ed è cresciuta intanto nel triennio 2010-2012 la quota di imprese innovative in Italia, secondo l'Istat, passando dal 31,5 al 35,5%. La penisola si posiziona al di sopra della media europea. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta pure l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Giovani Talenti UE, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di aprile: l'Italia è ancora il paese dei raccomandati? Quanti raccomandati conoscete che non hanno mai inviato uno straccio di curriculum per guadagnarsi il posto? È ancora utile essere figlio di in questo paese? E per ogni raccomandato incapace, quanti giovani bravi e senza santi in paradiso se ne vanno? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare dall'estero. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi. giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.